Il Terzo Anello, ad alta voce, in collaborazione con la Discoteca di Stato Museo dell'Audiovisivo. Leopoldo Mastelloni legge Amore e ginnastica di Edmondo De Amicis. Una volta il segretario aveva raggiunto la Pedani, sola, a piè della scala, rientrando in casa, quando eccoti dietro l'ingegner Ginoni, che rientrava pure. Dopo che Don Celzani era ricascato nella sua passione, quegli aveva ripreso a far con lui la sua parte di protettore tra benevolo e canzonatorio, ma questa volta gli diede un dispiacere. «Signorina Pedani», disse con maggior serietà, mettendo una mano sulla spalla del segretario, «le faccio la presentazione d'uno dei più assidui e valenti acrobatici della palestra di Torino». Don Celzani fremé, negò, arrossendo, acceso di dispetto, si sarebbe voluto nascondere e augurò il malanno in cuor suo all'impertinente. Ma la maestra fece un'esclamazione di lieta maraviglia guardandolo, come per cercare i cambiamenti che la ginnastica aveva prodotti nella sua persona. In quel momento, appunto, egli stava nel solito atteggiamento pretesco, ma lei parve di vedergli un che di più vivo negli occhi. Non di meno dubitò d'uno scherzo. «Vede che non lo può negare due volte?» disse l'ingegnere. «Creda, signora maestra, che il fatto d'aver mandato Don Celzani alla palestra sarà la più meravigliosa delle sue prodezze!» Quel Don ferì un'altra volta nel vivo il Celzani, ma egli vide in viso della ragazza un sorriso così sincero di compiacenza, senza ombra di canzonatura, che si riconsolò. Sì. Il momento era giunto, egli avrebbe fatto bene a non tardare nemmeno più d'un giorno, e la sera stessa, infatti, prima di notte, all'ora in cui sapeva che la Zibelli era fuori, preso il pretesto d'andare a vedere se s'era fatto un certo guasto nel tubo dell'acqua potabile, salì in casa della Pedani. Sperava d'essere ricevuto nella sua camera, essa lo ricevette invece nel salotto in piedi. Vestiva la blusa da ginnastica di rigato turchino che le disegnava mirabilmente le spalle e una gonnella bianca con una macchietta d'inchiostro sopra il ginocchio. Aveva per la prima volta l'aspetto un po' imbarazzato, ciò che stupì Don Celzani, ma l'imbarazzo non derivava tanto dalla visita di lui, della quale indovinava lo scopo, quanto dalla certezza assoluta che ella aveva, come se la vedesse, che la donna di servizio appostata dietro all'uscio non avrebbe perduto una sillaba dei loro discorsi. «Signorina», disse piano Don Celzani, tremando, dopo aver parlato ad alta voce del tubo, «vengo per volta a domandarle se è sempre della stessa idea». Essa lo guardò con aria benevola, diede un'occhiata all'uscio e ripeté, con leggero accento di rammarico, le sue stesse parole. «Sempre la stessa idea». Don Celzani impallidì e domandò più piano, «Irremovibile?» La maestra tornò a guardare verso l'uscio e, chinando un poco il viso in atto di pietà, rispose, «Sì». Il segretario si passò una mano sulla fronte e sbarrò gli occhi. Quella risposta l'aveva paralizzato, non trovava parole, il silenzio si prolungava, non si poteva restar così. La maestra, che neppure sapeva che cosa dire, fece un atto di inquietudine che egli notò. Allora disse, «Me ne vado». Essa non rispose. Egli si mosse e, quando fu vicino all'uscio, voltando indietro il viso, stravolto, con un accento disperato che avrebbe fatto scoppiare dal ridere uno spettatore indifferente, «Dunque», disse, «nel tubo dell'acqua potabile non c'è niente da fare». Quel contrasto ridicolo tra la voce e la parola toccò nel cuore la ragazza più di qualunque supplicazione. Ella fu tentata di dirgli qualcosa per consolarlo, ma la coscienza le vietò di illuderlo e disse soltanto con un sorriso affettuoso e pietoso che egli non vide. «No, signor Celzani, non c'è nulla da fare». Quegli rispose con un singhiozzo nella gola, «Tanti rispetti!» ed uscì. L'ingegner Ginoni, che seguitava con occhio curioso ed accorto questo crescitteundo, incontrata una mattina la maestra Pedani nel cortile, si fermò a 5 passi davanti a lei e le fece scherzosamente un atto minaccioso con la canna. Poi s'avvicinò e tradusse l'atto in parole. «Ah, spietata signorina, ma non sa lei che il povero Don Celzani si va perdendo per cagion sua?» La maestra non capì. «Egli va perdendo la cuccuma», e disse quello che aveva inteso dal commendatore. Da un po' di tempo la segreteria non camminava più, l'amministrazione andava a rotta di collo, gli inquilini dell'altra casa di Vanchiglia erano venuti a fare il diavolo col padrone perché non ricevevano più risposta ai loro richiami. Il bravo segretario s'era fatto multare 2 volte per aver tardato a pagare le tasse di registro. «Ecco», soggiunse, «a che cosa conduce la ginnastica, ecco i funesti effetti dell'esercizio del sistema muscolare sulle funzioni del cervello!» Ancora 3 giorni addietro, il povero Don Celzani s'era lasciato infinocchiare miseramente nella vendita di 800 miriagrammi di fascine e di legna dei poderi dello zio, facendo uno sbaglio d'addizione che costava al commendatore 110 lire e 75 centesimi. Il commendatore gli aveva fatto un partaccione, era fuori dai gangheri. Se Don Celzani gliele faceva ancora una, egli aveva deciso di dispensarlo ipso fatto dai suoi servizi e di mandarlo a spasimare in casa d'un altro. E lei, fredda di cor, vulneratrice, aveva il coraggio di rovinare in quella maniera un povero galantuomo. La Pedani non sorrise. La cosa le rincresceva davvero e lo disse fissando gli occhi a terra, come assorta in un pensiero. «Mi rincresce», poi soggiunse. «Io non c'ho nessuna colpa, però». «Questo è male», rispose l'ingegnere ridendo, «perché se ci avesse colpa sarebbe obbligato a riparare, e allora veda un po' quanti beni. Il segretario non perderebbe la testa, il commendatore non perderebbe il segretario. Povero segretario, un cuor d'oro in fondo, un uomo onesto, la miglior pasta di abatino fuorviato che Dio abbia messo in terra, solamente alla disgrazia di aspirare alla perfezione delle linee, e la perfezione, si sa, non la raggiungono che i privilegiati». E qui diede in una risata. «Oh, oh, oh, che prodigio dire che lei ha mandato Don Celzani alla cavallina!» La maestra pensava. «Basta», soggiunse il Ginoni, «purché dal salto della cavallina non passi a quello del ponte di Po». «Oh, signor ingegnere», disse la Pedani con un sorriso, ma non senza inquietudine, «il signor Celzani non è uomo da far queste cose». «Signorina», rispose il Ginoni, «l'uomo anche più mite e più ragionevole del mondo per se stesso è come dell'acqua in un bicchiere che trabocchi o no, dipende dal grado di forza della polvere effervescente che ci mette dentro la passione». Detto questo, la salutò e quella s'avviò per le scale, pensierosa. La Pedani uscì ben presto da quel pensiero, poiché la sua passione sovrana riceveva in quei giorni un alimento potentissimo dalle notizie che giungevano d'ora in ora delle grandi feste del congresso ginnastico di Francoforte. Ogni giornale che gliene recava nuovi particolari rinfiammava il suo entusiasmo. Il pensiero di poter concorrere anche per poco nel suo angusto campo a preparare al proprio paese delle giornate simili, diffondendo la fede negli effetti meravigliosi dell'educazione fisica ed eccitando altri a diffonderla come il verbo d'un'età nuova, le accendeva l'anima, le illuminava tutte le facoltà, le triplicava le forze al lavoro. In quei giorni, appunto, stava preparando un discorso a quel proposito da pronunciare al prossimo congresso nazionale degli insegnanti primari che si doveva inaugurare a Torino, e avendo avuto ottimo successo una raccolta di vari articoli pubblicata dal Campo di Marte, nei quali essa aveva caldeggiato l'istituzione in ogni grande città d'un corpo di pompiere volontarie, si apparecchiava a tenere una conferenza su quell'argomento nella sala della scuola Archimede. E intanto riceveva da molte parti incoraggiamenti, lettere di congratulazione, proposte e quesiti di filogenici appassionati, e a tutti rispondeva. Per lei, che non aveva mai sognato d'uscire dalla più modesta oscurità, quel po' di rumore che si faceva in un angolo del mondo intorno al suo nome era la gloria, e la gloria è solitudine. E quando sentiva questa solitudine, durante le interruzioni del suo lavoro, nei giorni in cui l'amica non le parlava, il suo pensiero andava qualche volta al povero Don Celzani, non come a un amante, ma come a un amico, e allora ella stava per un momento con l'asticciola della penna appoggiata al labbro di sotto e con un leggero sorriso di benevolenza rivolto alla sua immagine. Tenne la sua conferenza sulle pompiere volontarie. Aveva scelto male la serata. C'era poca gente, fra cui una trentina di signore e un gruppo di studenti, ma riportò fra quei pochi, per la singolarità del soggetto e per la vivezza originale dell'esposizione, un caloroso successo. Uno dei primi che le corsero a stringere la mano fu il giovane Ginoni. Al veder lei per la prima volta in pubblico, ammirata e applaudita, la sua passioncella aveva ripreso fuoco per la miccia della vanità. L'idea degli squisiti godimenti d'amor proprio che egli avrebbe assaporati quando fosse riuscito a vincerla gli diede come un solletico irresistibile, e non conoscendola a fondo si decise a una nuova mossa da giovanotto impetuoso e leggero che crede nell'onnipotenza dell'assalto alla baionetta. Il giorno dopo, all'ora in cui soleva uscir sola, egli l'aspettava sul pianerottolo del primo piano. Pioveva, la scala era buia, quindi propizia. Per avere un modo d'entratura, egli aveva comperato dal Berri un ritratto del Meller, il vincitore del primo premio di Francoforte, del quale in pochi giorni s'erano diffuse migliaia di fotografie in tutta l'Europa. Quando la sentì discendere, salì verso di lei. Essa era veramente bella quel giorno, ancora un po' eccitata dal piccolo trionfo della sera innanzi, tutta vestita di scuro, con un grande cappello nero che incoronava mirabilmente la sua forte e snella persona. Il giovane si levò il cappello e con allegra disinvoltura, mettendole davanti la fotografia, «Signorina», le disse, «mi permette di offrirle un ritratto che forse è curiosa di vedere?» Essa avvicinò il viso con diffidenza, ma appena letto il nome mise un'esclamazione di piacere, «Meller!» E preso il ritratto, si accostò al muro per vederlo meglio, sotto quel po' di luce che veniva dal finestrino della scala. Il giovane le si strinse al fianco come per guardaregli pure, e sporgendo il mento sopra la spalla di lei, cominciò a dar delle spiegazioni a bassa voce, segnando con l'indice della mano destra. «Questo è un vero tipo tedesco. Guardi la struttura del cranio, guardi che bocca. Eppure, se non si sapesse, non si direbbe che è il primo ginnastico della Germania. Non mi vorrà mai dire una parola consolante. Sarà sempre così indifferente con me. Il passaggio da una domanda all'altra era stato così naturale che la maestra non aveva subito posto mente, ma lo avvertì bene e meglio sentendosi la guancia di lui contro la sua e un braccio intorno alla vita. Si svincolò con una brusca mossa indignata dicendo: «Signor Ginoni, questo è un agguato ignobile!» Il giovane si tirò indietro per farle una risposta comica, ma la rattenne e si rabbuiò vedendo apparire in capo alla scala la faccia stravolta del segretario, il quale veniva giù lestamente con un ritratto del Meller, lui pure. «Che cosa fa lei qui?» domandò al segretario che s'era fermato e lo fulminava con gli occhi. «Non vien mica a riscuotere la pigione!» Il segretario non seppe far di meglio che ripetere fremendo le parole della maestra: «È un ignobile agguato!» «Caspita!» ripeté il giovane, mentre la maestra se ne andava lentamente. «È un'eco perfetta, salvo la trasposizione dell'aggettivo. Soltanto badi, le parole dette da lei io le piglio in tutt'altro senso. E osa ancora!» esclamò il segretario quasi fuori di sé. «Se non fosse il rispetto che ho per il suo signor padre!» «Oh, per carità!» interruppe lo studente. «In queste cose non c'entra né il signor padre né la signora madre. Son 20 anni che sono slattato. Qui non ci sono che 2 uomini. Ma per non sciupare il fiato mi dica, lei è uno di quei segretari che si battono?» «Sì!» rispose ad alta voce don Celzani, pigliando un'impostatura troppo tragica per l'occasione. «Sono uno di quelli che si battono!» «E allora basta così», disse il giovane risoluto, «avrà l'onore di rivedermi!» E voltate le spalle, rientrò in casa sua. Un'ora dopo, L'ingegner Ginoni, informato d'ogni cosa dalla Pedani, prendeva il cappello seccato e saliva le scale per andare dal segretario col fine di prevenire ogni passo del suo figliolo. In fondo, benché spiacentissimo dell'offesa fatta alla signorina, considerava la provocazione del giovane come una ragazzata, ma da uomo di mondo che conosceva i riguardi dovuti all'amor proprio d'un giovanotto vivo, capace di intestarsi a voler condurre a fondo la cosa, la voleva accomodare all'amichevole, non già ritrattando la provocazione in nome di lui, ma proponendo una conciliazione per la quale si facesse un passo avanti dalle due parti. Si presentò dunque al segretario, che trovò solo coi modi cordiali d'un amico, ma quegli, eccitato sempre dalla passione, eccitatissimo allora dalla gelosia, lo ricevette con sussiego, di cui l'ingegnere durò fatica a non ridere. Affabilmente questi gli disse che era stato informato dalla maestra e che era venuto per comporre la contesa da buoni amici. Deplorava l'atto del figliuolo, ma il duello sarebbe stato una pazzia, un'assurdità ridicola, di cui non c'era neppure da discorrere. Bisognava sopire la cosa immediatamente. «Andiamo, caro segretario», disse, «la maestra Pedani è fuori di questione. Io posso fare in nome di mio figlio, per quel che riguarda la signorina, le più ampie scuse, com'è di dovere, ma per ciò che riguarda lei, non ci fu che un po' di vivacità dalle due parti. Lei non ha che a mostrare un po' di buon volere, e la cosa non avrà seguito alcuno, ne rispondo io». Ma Don Celzani non era più il Don Celzani d'una volta. «Io sono stato offeso», disse. «Andiamo», rispose l'ingegnere, «le parole più gravi che si siano pronunciate sono ignobili e agguato, e le ha dette lei. Chi ha più giudizio più ne metta, lei ha 15 anni di più, non è il caso di stare sui puntigli, che diavolo!» Ma il segretario l'aveva a morte per quel certo braccio intorno alla vita. Questo era il punto, non la provocazione, per questo era di difficile accomodamento. «Pretende forse che io mi umili?» domandò rizzando la cresta. «Ma di che umiliazioni mi va parlando?» esclamò l'ingegnere. «Non si tratta di questo, si tratta di salvare l'amor proprio d'un giovanotto che ha lanciato una provocazione, non la vuol capire. Si tratta di fare in maniera che non sia costretto a darci seguito. Non ha che dire che le rincresce d'aver pronunciate quelle due parole e le rispondo io che è tutto finito, oh santo Dio! Ma è per punto d'onore o per gelosia che è tanto duro?» Don Celzani rispose solennemente, «per l'uno e per l'altro». L'ingegnere lo guardò e perdette la pazienza. «Non credevo», disse, contenendosi a stento, «che l'amore le avesse vuotato il cervello a questo segno. Ma dunque, lei cerca un duello?» Quegli alzò il capo e rispose con tuono veramente eroico, «non lo cerco, ma non lo temo!» «E allora le dirò che è matto nel mezzo della testa!» gridò l'ingegnere esasperato, «e che se le piglierà, saranno sue!» E uscì, sbattendo l'uscio con violenza. Leopoldo Mastelloni ha letto Amore e ginnastica di Edmondo De Amicis, realizzazione tecnica di Lorenzo Grego, a cura di Fabiana Carovolante e Anna Marzetti, con Lorenzo Pavolini, il terzo anello @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce nel sito radio3.rai.it. Per scaricare questo programma, radio3pod.rai.it.